Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di Un Abuso al Giorno. Oramai vi facciamo compagnia da oltre un anno, quotidianamente a quest'ora e in replica alle 20.45, da lunedì al venerdì. Prima di addentrarci nell'argomento di oggi vi ricordo il nostro indirizzo mail al quale segnalare i casi che, vi ricordo ancora una volta, non devono essere casi personalissimi, vale a dire il telefono che non funziona piuttosto che la luce che viene tagliata o via di questo passo, perché non posso affrontare ovviamente questi temi, ma dobbiamo affrontare temi che, pur essendo magari personali, però riguardano una platea di persone. Vi ricordo anche il mio indirizzo blog, che è http://robertogalullo.blog.ilsole24ore.com. Ebbene, alcuni giorni fa abbiamo affrontato il tema, un anno dopo, della famiglia nobile che è ancora saldamente ancorata, passatemi questa espressione, nell'ufficio anagrafe del comune di Ercolano. Siamo quindi in Campania. La famiglia nobile si è trovata senza casa improvvisamente, è stata prima ospitata nell'ufficio anagrafe di Ercolano e poi gentilmente invitata a lasciare l'ufficio anagrafe stesso. Abbiamo affrontato questo come un caso di vero e proprio abuso alla dignità umana e l'abbiamo ripetuto anche nei giorni scorsi, un abuso nei confronti dei lavoratori del comune di Ercolano. E sì, perché mentre la famiglia nobile stira, i dipendenti dell'ufficio anagrafe del comune di Ercolano fanno il proprio mestiere, quindi magari rilasciano dei certificati. Torniamo ancora sul caso e prima di ascoltare la voce degli amministratori e sentire il loro punto di vista un anno dopo, vediamo che cosa ci è stato raccontato dal sindaco di Ercolano Gaetano Daniele a fine settembre 2007, quando abbiamo dedicato la prima puntata a questo argomento. Noi abbiamo già come giunta comunale stanziato un contributo per permettere alla famiglia nobile di trovarsi un nuovo alloggio in fitto, tenendo conto che il comune di Ercolano non dispone di alloggi né ne potrà disporre, perché essendo un comune per la zona rossa vesuviana, per legge non solo non si possono edificare nuove case, ma addirittura noi diamo contributi a quei cittadini che volontariamente lasciano la nostra città. Ecco, questa partita mi pare di poter dire che si gioca sui tempi, perché ora è da maggio che loro sono... questo contributo per aiutare la famiglia nobile a trovare questo nuovo alloggio, però sappiamo che la famiglia nobile ha una difficoltà, anche essendo una famiglia diciamo in condizioni economiche disagiate, a poter corrispondere le mensilità anticipate che sono necessarie in genere quando si fitta un nuovo alloggio, e quindi io mi impegno anche da questo punto di vista rapidamente come comune a venire in loro aiuto. E quando crede che la famiglia nobile lascerà l'ufficio anagrafe del comune? Dipende da questa disponibilità di un nuovo alloggio che la famiglia nobile insomma ci aveva segnalato di avere individuato. Ecco, ma parliamo di settimane, mesi? Oh, io spero settimane, ma certamente non mesi, sarebbe veramente benissimo. Una sconfitta per tutti quanti noi. Bene, queste erano le dichiarazioni del sindaco Daniele a botta calda, diciamo così, quando fu sollevato il caso. Avete sentito che ci aveva detto che sarebbe stata una sconfitta per il comune di Ercolano continuare a mantenere nell'ufficio anagrafe la famiglia nobile. E allora noi, a distanza di pochi mesi, a fine 2007, sotto le festività natalizie, siamo tornati dal sindaco Daniele perché la famiglia ancora era nell'ufficio anagrafe. Sentiamo cosa ci ha raccontato il sindaco. E la famiglia nobile non vuole lasciare l'alloggio. Beh, l'alloggio diciamo che viene... La sistemazione provvisoria in cui sta, perché noi le abbiamo assicurato 3 anni di contributo per integrazione di fitto, diciamo, un contributo di 3.000 euro all'anno per 3 anni, sì, perché lei si trovi in una nuova alloggio. E la famiglia nobile rifiuta questo contributo perché vuole una casa dal comune. Noi, il comune di Ercolano, non ha alloggi per poter assegnare. Qualora li avesse e potesse assegnarli, dovrebbe fare un bando per assegnare degli alloggi. No, quindi non voi posso. Non avete edilizia residenziale pubblica anche perché siete nella cosiddetta fascia rossa del Vesuvio. Siamo nella zona rossa, quindi esatto. Non possiamo edificare alloggi di nessun tipo, né pubblico né privato. Quindi l'unico intervento che possiamo fare è dare per un certo tempo un aiuto a trovarsi una nuova sistemazione. Ecco, ma allora a questo punto, visto che voi avete fatto il vostro, cioè avete detto noi mettiamo a disposizione 3.000 euro. Anche altre cose, abbiamo assicurato alcuni interventi attraverso il nostro settore politiche e sociali per quanto riguarda un componente del nucleo familiare che ha una madre nubile. Quindi in questo caso c'è un aiuto che in più abbiamo. Quindi un aiuto economico, diciamo. Un aiuto economico di sostegno. In più abbiamo interpellato l'ASL per vedere se per quanto riguarda il capo famiglia ci sono le condizioni per l'invalidità. Abbiamo previsto anche di accollarci le spese di trasloco eventualmente. Che cosa accadrà a questo punto? Userete la forza, li slogerete o saranno destinati a rimanere lì fino a che non accadrà qualcosa? Penso che a un certo punto dovremo ricorrere a un intervento forzato. Alla forza pubblica, insomma, diciamo, le forze dell'ordine. Ma noi speriamo sempre, come dire, nel dialogo, nella persuasione. Probabilmente ci sarà qualcuno che li consiglia male, diciamo. Sindaco applica le leggi. Le leggi questo mi consentono di fare, questi interventi io posso fare, forse anche, credo di essere probabilmente l'unico comune in Italia che si spinge fino a questi elementi di solidarietà attiva nei confronti. Oltre questo credo che non potete fare. Non possiamo fare. Speriamo che tutti ci aiutino a persuadere gli interessati che veramente noi abbiamo fatto il massimo e quindi sperare di poter ottenere altre cose è veramente una speranza infondata e quindi si avvalgono del contributo che noi possiamo dare. Ed allora questo è quello che ci ha raccontato il sindaco Daniele alcuni mesi fa. Eravamo tra Natale e il Capodanno 2008. A distanza di un anno siamo tornati a sentire l'amministrazione comunale e abbiamo parlato con l'assessore all'edilizia Pirone del comune di Ercolano. Pronto? Assessore Pirone? Chi è? Buongiorno, sono Galullo, Roberto Galullo, sto chiamando dal Sole 24 Ore, Radio 24. Mi dica. Buongiorno, come sta? Abbastanza bene, sto in un luogo dove non si sente bene il telefonino, però adesso a lei la sento. Ah, meno male che mi sente. Assessore, lei in questo momento è in onda sulla mia trasmissione che, come lei sa, si chiama Un Abuso al Giorno, perché ci siamo sentiti più o meno un anno fa per la vicenda della famiglia Nobile, se lo ricorda? Sì. Se lo ricorda. Bene, mi fa piacere. Che lei mi ha chiamato, però poi non ci siamo soltanto sentiti. Ci siamo soltanto sentiti perché poi io intervistai il suo sindaco, il sindaco Daniele. Ecco, assessore, io sto tornando su questa vicenda perché abbiamo ascoltato la famiglia Nobile e, ahimè, lo dico più per voi che per noi cittadini italiani, ancora vive presso l'ufficio anagrafe del comune di Ercolano. Ecco, le chiedo, ma non si era impegnato anche lei a trovare un'abitazione alla famiglia Nobile? Senta, premesso che l'ente comunale, l'amministrazione e poi il sindaco e gli assessori non vanno le agenzie immobiliari. Assolutamente, lei ha ragione. Premesso questa faccenda qua. Poi noi l'altra volta non avevamo possibilità di parlarne in maniera abbastanza estesa. Glielo dico adesso. Allora, Ercolano c'ha un patrimonio immobiliare molto vecchio, che non dipende ovviamente dal sindaco di adesso, né manca dal sindaco. C'è un patrimonio immobiliare vecchio. Ecco, ma io ricordo che questo qui il sindaco lo spiegò molto bene. Io non sto, questo ci tengo a dirlo, assolutamente dando la colpa di quello che sta accadendo al comune di Ercolano, anzi cerco di venire incontro alle esigenze proprio del comune e della stessa famiglia Nobile per capire come si può uscire da questa storia, ma la mia intenzione non è assolutamente criminalizzare alcuno. No, io glielo sto spiegando come certo. Se ne esce. Allora io le stavo dicendo, cioè abbiamo un patrimonio immobiliare vecchio, pensi che io in questi giorni sono impegnato perché impegnato su un versante, voglio dire, delle mie competenze, perché 11 nuclei familiari, 66 cittadini di Ercolano, perché sono 66 in tutto, devono abbandonare le loro case per permettere i lavori perché il palazzo è pericolante. Noi che cosa facciamo per queste persone? Gliel'abbiamo detto 2 mesi fa, 3 mesi fa, trovatevi un'altra abitazione, noi vi diamo un sostegno mensile di contributo alle spese e ai disagi che vivete finché non trovate, finché non ritornate nelle case. E ricordo che fu proposto anche alla famiglia Nobile questo un anno fa, ma il punto è che la famiglia Nobile mi pare che stia rifiutando una dopo l'altra le proposte dell'amministrazione. Il contributo lo ritiene esiguo, le case probabilmente forse non sono quelle che si attendono, e insomma io ricordo che alla fine il sindaco un anno fa ci disse: beh, se va avanti così ricorreremo alla forza pubblica. Ascolti un attimo a me. Lei pensa che questi 11 nuclei familiari, che in un primo momento pensavano di non trovare un'altra abitazione, l'hanno trovata, cioè io dico, solo la famiglia Nobile, possibile che non riesce a trovarle, rifiuta, noi abbiamo detto, ti diamo un contributo mensile, se hai altre esigenze, diciamo, contributive, trasloco, che ne so, altre cose, ti veniamo incontro, no, possibile, questi sono... 2 anni non trovano un appartamentino a Ercolano, a me mi sembra un pochettino eccessivo, non ecco, mi sembra. Assessore, fermo un attimo perché il tempo a nostra disposizione è concluso. Torneremo nei prossimi giorni sull'argomento ancora con lei e poi cercheremo, almeno proveremo, a cercare anche il sindaco Gaetano Daniele. Grazie per il suo intervento. Io ringrazio in regia Giacomo Spunta, in studio Laura Fagini, e Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata di Un Abuso al Giorno.